laureato in lettere, ma non ho trovato un vero lavoro, solo una robetta piccola di contorno, nel senso che potevo vedere solo i contorni.